Sotto ogni punto di vista, proseguì lo zio Dian a Tom, ci pare sia preferibile far così che crescerti lo stipendio. Acquisterai più importanza e ti troverai meglio preparato a sollevarmi gradatamente da qualcuna delle mie responsabilità. Per adesso sono ancora in grado di sviluppare una buona massa di lavoro, grazie a Dio, ma divento vecchio, è inutile negarlo. Ho detto a Mr. Guest che avrei toccato quest'argomento con te e quando tu tornerai da questo viaggio nel nord potremo entrare nei particolari. È un bel passo per un giovanotto di 23 anni, ma devo dire che te lo sei meritato. Sono molto riconoscente a Mr. Guest e a voi, signore. Naturalmente il maggior debito lo sento verso di voi che per primo mi avete messo nell'azienda e da allora vi siete preso per me parecchi grattacapi. Tom disse queste parole con un leggero tremito e poi tacque. Sì, disse Mr. Dian, io non mi risparmio i grattacapi quando vedo che approdano a qualche cosa. Mi sono dato parecchia pena con Gel, altrimenti egli non sarebbe quello che è. Ma c'è una cosa di cui vorrei accennarvi, zio. Prima d'ora non ve ne avevo mai parlato. Se vi ricordate, quando la proprietà di mio padre fu messa in vendita, la vostra ditta ventilò di acquistare il mulino. So che voi lo ritenevate un ottimo investimento, soprattutto se si facevano gli impianti a vapore. Sicuro, sicuro. Ma Wakem offrì più di noi, si era fissato su questo affare. Quello ha la mania di scavalcare l'altra gente. Forse è inutile ora che io parli di queste cose, proseguì Tom. Ma vorrei che sapeste ciò che io penso riguardo al mulino, è un punto su cui ho dei sentimenti molto vivi. Mio padre, morendo, espresse il desiderio che io tentassi di recuperarlo appena possibile. Da 5 generazioni esso apparteneva alla sua famiglia. Glielo promisi e inoltre mi sento attaccato a quei luoghi. Non potrò mai amarne altri così vivamente. Se eventualmente entrasse nelle vostre vedute di acquistarlo per la ditta, io avrei maggior probabilità di esaudire il desiderio di mio padre. Non avrei voluto parlarvene se voi non aveste avuto la bontà di dirmi che i miei servizi sono stati di qualche valore e rinuncerei a possibilità di fortuna anche maggiori, pur di poter riavere il mulino, averlo in mano mia, dico, e riscattarne a poco il prezzo col mio lavoro. Mr. Dian aveva ascoltato con attenzione e ora pareva pensieroso. Capisco, capisco, disse dopo un po'. La cosa sarebbe possibile se ci fosse qualche probabilità che Wakem cedesse la tenuta, ma non ne vedo. Egli vi ha impiegato quel giovane Jetson e aveva le sue buone ragioni quando l'ha comperata, potrei giurarlo. Oh, è uno scervellato quel giovane Jetson, disse Tom. Si mette a bere e dicono che lasci andare le cose a rotoli. Me ne ha parlato Luke, il nostro vecchio mugnaio. Dice che non vuol più star lì se non avviene qualche cambiamento. Io pensavo che se le cose vanno per questa china, Wakem sarà più disposto a disfarsi del mulino. Luke dice che gli è molto seccato del modo come procedono gli affari. Bene, ci penserò, Tom. Devo informarmi del negozio ed esaminarlo con Mr. Guest. Ma tu capisci, questo sarebbe dedicarsi ad un nuovo ramo per affidarlo a te, invece di tenerti dove sei, come era nostra intenzione. Oh, sarei in grado di attendere a ben più che al mulino quando le cose fossero organizzate e marciassero a dovere. Ho bisogno di avere molto lavoro, non c'è nulla che mi stia più a cuore. In un simile discorso, fatto da un giovanotto di 23 anni, c'era qualcosa di triste anche agli orecchi di zio Dian, così innamorato d'affari. Baba, ben presto avrai anche da pensare a una moglie se vai avanti di questo passo. Ma quanto al mulino, non dobbiamo vendere troppo presto la pelle dell'orso. Comunque ti prometto di pensarci su e quando tornerai ne riparleremo. Ora devo andare a pranzo. Vieni domattina a colazione con noi, così potrai salutare tua madre e tua sorella prima di partire. 6. Dove si dimostrano le leggi dell'attrazione. Voi capite benissimo ormai che Maggie è arrivata a un momento della sua vita che qualunque persona di giudizio deve considerare come assai favorevole per una signorina. Lanciata nella miglior società di St. Oaks, dotata di una vistosa figura che aveva anche il vantaggio di riuscire completamente nuova alla maggior parte di coloro che la incontravano, nel sobrio ornamento di una veste che voi avete veduto adombrare in un ansioso colloquio tra Lucy e zia Pallet, Maggie si trovava certamente a un nuovo punto di partenza della sua vita. Alla prima serata in casa di Lucy, il giovane Tori tormentò più del solito i muscoli del suo viso affinché la fanciulla dagli occhi neri là nell'angolo potesse vederlo in tutta l'eleganza supplementare conferitagli dal monocolo. E parecchie giovani signore rincasarono decise a portare le maniche corte orlate di pizzo nero e a intrecciare i capelli in una larga corona alla sommità del capo. Quella cugina di Miss Dean stava così bene. Effettivamente, la povera Maggie, malgrado l'intima consapevolezza di un passato doloroso e il presentimento di un futuro malcerto, era sulla strada di diventare oggetto di qualche invidia, nonché argomento di discussione nella sala da biliardo inaugurata di recente, come pure tra le buone amiche che in materia di acconciatura non avevano tra di loro alcun segreto. Le Miss Guest, le quali frequentavano appena con degnazione le famiglie di St. Ogg's ed erano le arbitre dell'eleganza, sollevavano qualche eccezione sulle maniere di Maggie e la aveva un certo modo di non consentire subito alle osservazioni correnti nella buona società e di dire che non sapeva se quelle osservazioni fossero vere o no, cosa che le dava un'aria di gaucherie. E perfino impacciava il fluire della conversazione, ma bisogna però dire, senza malizia, che le signore non si sentono certo più maldisposte verso le nuove conoscenze del loro sesso per il fatto che queste abbiano qualche punto di inferiorità. E Maggie era così totalmente sprovvista di quelle graziose arie di civetteria a cui è tradizionalmente attribuita la fama di portare alla disperazione i giovanotti, che si accaparrò alquanta pietà da parte delle donne perché ad onta della sua bellezza riusciva a fare così poco effetto. Non aveva avuto una vita facile, poveretta, e bisognava ammettere che non si mostrava pretenziosa. L'impulsività e la disuguaglianza dei suoi modi erano manifestamente il risultato della sua condizione isolata e meschina. Sola meraviglia era che non ci fosse in lei la minima punta di volgarità, tenuto conto di quelle che erano le altre parentele della povera Lucy. Allusione che faceva sempre un tantino fremere le Miss Guest. Non era piacevole di pensare a un matrimonio che le imparentasse con gente come i Glegg e i Pallet, ma era inutile di contraddire Steven quando si era fissato su qualche cosa, e d'altronde contro Lucy personalmente non c'erano obiezioni, nessuno poteva fare a meno di volerle bene. Ella avrebbe naturalmente desiderato che le Miss Guest trattassero con gentilezza questa cugina di cui era così entusiasta e Steven avrebbe fatto un mezzo finimondo se avessero difettato di cortesia. In simili circostanze, gli inviti alla casa del parco non mancarono e neppure in altre famiglie. Miss Dean era una persona troppo nota e importante nella società di St. Oaks perché si venisse meno al più piccolo riguardo verso di lei. Così Maggie fu introdotta per la prima volta nella vita delle giovani signore e conobbe che cosa fosse alzarsi al mattino senza un'imperiosa ragione di fare una cosa piuttosto che l'altra. Questo nuovo senso di vacanza e di libera gioia tra l'aria dolce e i profumi del giardino nell'avanzar della primavera, tra quell'inattesa abbondanza di musica e le lente passeggiate sotto il sole e le deliziose fantasticherie mentre la barca scivolava silenziosamente sul fiume, non poteva a meno di esercitare su di lei, dopo tanti anni di privazioni, un certo effetto inebriante. E fin dalla prima settimana Maggie cominciò a sentirsi meno gravata dalle sue tristi memorie e apprensioni. Ora la vita era certamente assai piacevole. Diventava piacevole vestirsi da sera, sentire di essere una delle cose belle di quella primavera. E poi c'erano sempre degli occhi che l'attendevano in ammirazione. Non era più una persona negletta ed esposta ai rimproveri, dalla quale tutti pretendevano cortesie senza mai sentirsi in obbligo di fargliene. Piacevole anche, quando Steven e Lucy erano fuori a cavallo, sedersi sola al pianoforte e trovar che la vecchia intesa tra le dita e i tasti persisteva. Riviveva anzi come una simpatica amicizia che la separazione non aveva potuto logorare, cercar le arie che aveva udite la sera innanzi e ripetersele tante volte fino a scoprire un modo di suonarle che ne faceva per lei un linguaggio più sensuoso e appassionato. Il semplice accordo di ottava era una delizia per Maggie, che spesso prendeva un fascicolo di studi piuttosto che un pezzo, per poter gustare più vivamente in quei suoni astratti la sensazione più primitiva degli intervalli. Non che una simile maniera di godere la musica fosse tale da indicare un grande talento specifico, quella suscettibilità al supremo eccitamento della musica era piuttosto una forma dell'appassionata sensibilità caratteristica in tutto il suo temperamento, in cui i difetti e le virtù si confondevano gli uni con le altre, che se a volte trasformava i suoi affetti in esigenze impazienti, anche impediva alla sua vanità di atteggiarsi come semplice civetteria e astuzia femminile, e le dava la poesia dell'ambizione. Ma voi conoscete Maggie da tanto tempo e desiderate vi si narri non già il suo carattere, bensì la sua storia, che è cosa difficile da presagire, anche quando si possegga la più completa conoscenza del carattere. Il destino di Maggie, dunque, ci è nascosto per ora e dobbiamo aspettare che si riveli come il corso di un fiume non tracciato sulle carte. Sotto l'incanto dei nuovi piaceri, Maggie stessa aveva cessato di pensare, con la sua morbosa e apprensiva immaginazione, alla propria sorte futura e l'ansietà per il primo incontro con Philip la dominava sempre meno. Forse a sua stessa insaputa, non le dispiaceva che quell'incontro fosse stato differito. Philip, infatti, non era venuto la sera in cui era atteso e Mr. Stephen Guest riferì che egli era andato sulla costa. Probabilmente pensava per fare qualche disegno, ma non si sapeva con certezza quando sarebbe tornato. Era tutto Philip, quel sistema di andarsene via senza avvertire nessuno. Non tornò che 12 giorni dopo e trovò ad attenderlo i due biglietti di Lucy. Era partito prima di sapere dell'arrivo di Maggie. Forse bisognerebbe tornare ad avere 19 anni per comprendere i sentimenti che si erano affollati in Maggie durante quei 12 giorni. La durata che si assunsero per lei a causa delle nuove esperienze e dei mutevoli atteggiamenti del suo spirito. I primi giorni di una conoscenza hanno quasi sempre per noi questa importanza e occupano nella memoria uno spazio più ampio che i lunghi periodi successivi, meno colmi di scoperte e di nuove impressioni. Non molte furono in quei giorni le ore che Mr. Steven non passasse seduto al fianco di Lucy o in piedi accanto a lei presso il pianoforte o accompagnandola in qualche passeggiata fuori di casa. Le sue attenzioni si facevano manifestamente più assidue, esattamente come tutti si aspettavano. Lucy era molto felice, tanto più felice perché la compagnia di Steven pareva divenuta molto più interessante e divertente da quando Maggie era lì. Erano discussioni scherzose, talvolta anche serie, nelle quali sia Steven che Maggie si rivelavano a se stessi, tra l'ammirazione della gentile e discreta Lucy. E più di una volta le venne fatto di pensare al delizioso quartetto in cui si sarebbe svolta la loro vita allorché Maggie avrebbe sposato Philip. È poi tanto inesplicabile che una fanciulla possa godere maggiormente la compagnia del proprio innamorato alla presenza di una terza persona, senza sentire il più lieve spasimo di gelosia, quando anche la conversazione sia sempre rivolta a quella terza persona. No, se la fanciulla sia d'animo tranquillo come Lucy, intimamente persuasa di conoscere gli affetti dei suoi compagni e non disposta ai sentimenti che scuotono una simile fiducia finché non abbia prove positive in contrario. Di più, era accanto a Lucy che Steven si sedeva, a lei che dava il braccio, a lei che si rivolgeva come a una persona che sicuramente gli avrebbe dato ragione. Ed erano tutti i giorni le stesse tenere cortesie verso di lei. La stessa sollecitudine di conoscere i suoi desideri, la stessa cura di soddisfarli. Veramente? Le stesse? A Lucy pareva anzi che fossero cresciute, né fa meraviglia che le sfuggisse il reale significato di quel cambiamento. Era un moto sottile della coscienza di Steven, del quale egli stesso non si rendeva conto. I suoi riguardi personali verso Maggie erano relativamente poca cosa, anzi, una apparente distanza si era stabilita tra di loro che impediva il rinnovarsi di quella leggera specie di galanteria a cui si era abbandonato il primo giorno sulla barca. Se Steven entrava quando Lucy era fuori della stanza, se Lucy li lasciava soli insieme, non si parlavano mai. Steven anzi pareva esaminare dei libri o della musica e Maggie teneva assiduamente la testa china sul proprio lavoro. Ciascuno dei due era oppressivamente conscio della presenza dell'altro fino alla punta delle dita. E tuttavia entrambi aspettavano e speravano che la stessa cosa si ripetesse il giorno seguente. Nessuno dei due vi aveva ancora riflettuto, si era chiesto dentro di sé dove andrà a finire tutto questo. Maggie sentiva soltanto che la vita stava rivelandole qualcosa di assolutamente nuovo ed era assorbita in quell'esperienza diretta e immediata, senza che le rimanesse alcuna energia per rendersene conto e per ragionarci. Steven si asteneva volontariamente dall'interrogarsi e non avrebbe ammesso di subire un'influenza capace di esercitare decisivi effetti sulla sua condotta. E quando Liu si rientrava nella camera, subito si sentivano liberi. Maggie poteva contraddire Steven e ridere di lui, ed egli raccomandare alla sua attenzione l'esempio della più affascinante tra le eroine, Miss Sophia Western, che aveva un grande rispetto per la comprensività degli uomini. Maggie poteva guardare Steven, cosa che per una ragione o per l'altra sempre evitava quando erano soli, ed egli arrivava perfino a pregarla di accompagnarlo al pianoforte dal momento che le dita di Liu si erano così occupate in quel lavoro per la vendita di beneficenza e a biasimarla perché stringeva i tempi, che era certamente il punto debole di Maggie. Un giorno, era quello del ritorno di Philip, Liu si aveva preso d'improvviso l'impegno di passare il pomeriggio con Mrs. Ken, la quale, cagionevole di salute e minacciata da un attacco di bronchite, era costretta a rimettere nelle mani di altre signore le sue mansioni per il prossimo banco di beneficenza, e voleva che una di queste fosse Lucy. L'impegno era stato preso alla presenza di Steven ed egli aveva sentito che Lucy prometteva di uscire per tempo e di andare per le 6 a far visita a Miss Torry, che le aveva recato la richiesta di Miss Ken. Ecco un altro risultato morale di quest'idiota vendita di beneficenza, scoppiò a dire Steven appena Miss Torry ebbe lasciata la sala. Distogliere le giovani signore dai doveri del focolare domestico per buttarle tra scene di dissipazione in mezzo alle terrecotte e alle borse ricamate. Mi piacerebbe sapere quali sono i veri compiti della donna, se non di creare dei motivi perché i loro mariti rimangano in casa e dei motivi ancora più forti perché gli scapoli vadano in giro. Se le cose procedono per un altro po' di questo passo, i vincoli sociali finiranno dissolti. Bene, la cosa non procederà per tanto tempo, disse Liusi ridendo, perché la vendita di beneficenza deve avere luogo 8 giorni a lunedì. Dio sia lodato, disse Steven. Lo stesso Ken mi ha detto ieri l'altro che non gli garba affatto questo sistema di far compiere dalla vanità l'opera della carità. Ma come il popolo inglese non è abbastanza ragionevole per sopportare delle tasse dirette. Allo stesso modo, St. Oaks non ha ancora trovato la forza di costruire e dotare delle scuole senza chiedere soccorso alla dissipazione. Così si è espresso? Disse la piccola Lucy e i suoi occhi color nocciola le si sbarravano ansiosi. Non l'ho mai sentito dire cose simili. Credevo che approvasse ciò che stiamo facendo. Quanto a voi, sono sicuro che vi approva, disse Steven sorridendole affettuosamente. Confesso che la vostra condotta nell'uscire stasera può apparire riprovevole, ma so che in fondo ad essa non c'è se non della bontà. Oh, voi avete troppo buona opinione di me, disse Lucy scuotendo il capo con grazioso rossore. E qui il discorso ebbe termine, ma fu tacitamente inteso che Steven quella sera non sarebbe venuto. E in forza di questa tacita intesa, egli prolungò la sua visita del mattino, non prendendo congedo che dopo le 4. Poco dopo il pranzo, Maggie era seduta sola nel salotto con Minnie sulle ginocchia e aveva lasciato lo zio al suo vino e al suo pisolino e la mamma al suo compromesso tra il lavoro di maglia e il sonno, che quando non c'era gente ella soleva prolungare in sala da pranzo fino all'ora del tè. Maggie era china a carezzare il piccolo animale lucente e a consolarlo dell'assenza della padroncina, quando il rumore di un passo sulla ghiaia le fece alzare gli occhi e vide Mr. Stephen Guest che risaliva il giardino come giungesse direttamente dal fiume. Era tanto raro di vederlo così presto dopo colazione. Spesso egli si lamentava che si facesse colazione troppo tardi alla casa del parco, e non di meno eccolo là. Con l'abito nero, evidentemente era stato a casa e doveva esserne tornato per il fiume. Maggie sentì che le guance le si accendevano e il cuore le batteva. Era naturale che fosse nervosa, perché non aveva l'abitudine di ricevere visite da sola. Egli l'aveva veduta guardare per la finestra aperta e le aveva tolto il cappello avanzandosi verso la finestra. Per entrare di lì, anziché dalla porta. Anch'egli arrossì e senza dubbio pareva sciocco quanto può parere un giovanotto dotato di una certa intelligenza e di un certo controllo su se stesso, quando entrò con un rotolo di musica in mano e disse con un'aria di esitante improvvisazione: «Sarete stupita di rivedermi, Miss Tulliver. Dovrei scusarmi di giungere qui da voi di sorpresa, ma desideravo di andare in città e mi sono fatto condurre in barca dal nostro uomo. Così ho pensato che potevo portare a vostra cugina questi pezzi della fanciulla di Artois. Stamane me ne ero dimenticato. Vorreste consegnarglieli?» «Sì», disse Maggie, che si era alzata confusa, con Minnie tra le braccia, e adesso, non sapendo bene che altro fare, era tornata a sedersi. Steven posò il cappello con la musica che rotolò per terra e si sedette sulla sedia vicino a lei. Cosa che prima d'allora non aveva mai fatto, e tanto lui quanto Maggie si rendevano perfettamente conto che era quella una posizione del tutto nuova. «Ehi, Beniamina, troppo viziata!» disse Steven, chinandosi a tirare le lunghe orecchie ricciute che pendevano sul braccio di Maggie. Non era un'osservazione feconda, e siccome l'oratore non la fece seguire ad ulteriori sviluppi, la conversazione naturalmente rimase dov'era. A Steven pareva un'azione di sogno che gli fosse costretto a compiere, meravigliandosi nel tempo stesso in cui la compiva e seguitava a carezzare il capo di Minnie, e tuttavia era molto piacevole. Soltanto avrebbe voluto osare di guardare Maggie e che lei lo guardasse, che gli lasciasse gettare un lungo sguardo dentro quei suoi occhi profondi e strani. Dopodiché sarebbe stato soddisfatto del tutto ragionevole. Quel desiderio di un lungo sguardo da parte di Maggie gli pareva che stesse diventando una specie di monomania e seguitava a tormentare la propria fantasia per escogitare qualche modo di ottenere quello sguardo, senza che ciò apparisse stravagante né dovesse poi cagionare dell'imbarazzo. Quanto a Maggie, non aveva un pensiero preciso, solo la sensazione di una presenza come di un uccello dalle grandi ali che volteggiasse proprio sopra di lei nell'oscurità, e perciò era incapace di alzare lo sguardo e non vedeva altro che il nero crespo pelame di Minnie. Ma questo doveva pur terminare. Forse terminò molto presto e non ebbe che l'apparenza di durare a lungo, come succede per i sogni di un minuto. Steven alla fine si sedette di fianco, appoggiando la mano e il braccio sullo schienale della seggiola e guardando Maggie. Che avrebbe detto? Credo che avremo uno splendido tramonto. Non vorreste uscire a vederlo? Non so, disse Maggie. Poi, alzando coraggiosamente gli occhi e guardando fuori della finestra, se non devo giocare a cribbage con lo zio. Una pausa durante la quale Minnie viene di nuovo accarezzata, ma è abbastanza intelligente per non mostrarsene grata e anzi protestare un pochino. Vi piace di starvene sola? Uno sguardo piuttosto malizioso passò sul viso di Maggie, che disse, gettando appena un'occhiata a Steven: «Sarebbe molto cortese dirvi di sì?» Era una domanda piuttosto pericolosa da parte di un importuno, disse Steven, deliziato da quello sguardo e fermamente deciso ad attenderne un altro. «Ma vi rimarrà più di mezz'ora, tutta per voi, dopo che io me ne sarò andato», soggiunse estraendo l'orologio. «So che Mr. Dean non rientra mai prima delle 7:30». Altra pausa, durante la quale Maggie guardò attentamente fuori della finestra, finché con grande sforzo abbassò il capo per tornare a fissare il dorso di Minnie e disse: «Vorrei che Lucy non fosse stata obbligata ad uscire, ci perdiamo la nostra musica». «Oh, domani sera avremo una voce di più», disse Steven. «Volete dire a vostra cugina che il nostro amico Philip Wakem è tornato? L'ho veduto mentre rincasavo». Maggie ebbe un piccolo sussulto, poco più di una vibrazione che in un istante la attraversasse dalla testa ai piedi, ma le nuove immagini evocate dal nome di Philip dissiparono in parte quell'oppressivo incanto a cui era soggiaciuta. Si alzò con subitanea risoluzione dalla seggiola e, adagiando Mini sul cuscino, andò a prendere in un angolo il grande paniere da lavoro di Lucy. Steven fu seccato e deluso. Pensò che forse Maggie non amava di sentir pronunciare così bruscamente il nome di Wakem, perché adesso si ricordava di ciò che Lucy gli aveva raccontato su quel litigio di famiglia. Era inutile rimanere più a lungo. Maggie era seduta al tavolo col suo lavoro e aveva un'aria fredda e fiera, e lui, ad essere venuto lì, aveva l'aria di uno scimunito. Una visita come quella, senza motivo, interamente superfluo, era tale certamente da rendere un uomo antipatico e ridicolo. Per Maggie, senza dubbio, era ovvio che gli aveva fatto colazione alla svelta in camera sua per uscire subito e trovarla sola. Uno stato d'animo veramente puerile per un giovane e compito gentiluomo di 25 anni, abbastanza colto nelle scienze legali. Ma se ci riferiamo alla nostra storia, forse non parrà incredibile. In quel punto il gomitolo di lana di Maggie rotolò per il pavimento ed ella si alzò per raggiungerlo. Anche Steven si alzò e, raccattando il gomitolo, le volse uno sguardo deluso e contristato, che diede ai suoi occhi un'espressione per Maggie affatto nuova, allorché i loro sguardi si incrociarono nell'atto in cui egli le porgeva il gomitolo. Addio, disse Steven in un tono che aveva la medesima tristezza supplichevole dei suoi occhi. Non osò tenderle la mano, le teneva tutte e due nelle tasche del panciotto mentre parlava. Maggie pensò che forse era stata sgarbata. Non vi volete fermare? Disse timidamente, senza volgere altrove lo sguardo, cosa che sarebbe potuta parere un altro sguardo. No, grazie, disse Steven, guardando ancora dentro quegli occhi mezzo riluttanti e mezzo affascinanti, come un assetato guarda verso il corso di un lontano ruscello. La barca mi attende. Lo direte a vostra cugina? Sì. Che ho portato la musica, voglio dire. Sì. E che Philip è tornato. Sì. Maggie non avvertì questa volta il nome di Philip. Non vorreste uscire a fare due passi nel giardino? Disse Steven con tono ancora più gentile, ma subito dopo fu contrariato che la non gli rispondesse no, e anzi si dirigesse verso la finestra aperta, sicché egli fu costretto a prendere il proprio cappello e a camminare al suo fianco, ma pensò a qualche cosa che potesse compensarlo. Prendete il mio braccio, le disse a bassa voce, come se fosse un segreto. C'è, per la maggior parte delle donne, qualcosa di stranamente attraente in quest'offerta di un braccio vigoroso. L'appoggio in quel momento non sarà fisicamente necessario, ma il senso di un appoggio, la presenza di una forza che è fuori di loro e tuttavia appartiene a loro, risponde ad un continuo bisogno dell'immaginazione. Forse questa o qualche altra ragione, Maggie accettò quel braccio e camminarono insieme intorno all'aiuola erbosa e sotto il languido verdeggiare dei citisi, in quel medesimo stato di vaga fantasticheria in cui si erano trovati un quarto d'ora prima, se non che Steven aveva ottenuto lo sguardo che desiderava e, tuttavia, non riscontrava in se stesso i sintomi di un ritorno alla ragionevolezza. E Maggie, fra mezzo il suo smarrimento, era colta da precipitosi pensieri. Come era giunta a trovarsi lì? Perché era uscita? Non una parola fu detta. Se si fossero parlati, ciascuno dei due avrebbe avuto una meno intensa consapevolezza della presenza dell'altro. Attenta a questo gradino, disse Steven alla fine. Oh, adesso rientro, disse Maggie, sentendo che quel gradino le era come venuto in soccorso. Buonasera. In un attimo aveva ritirato il braccio e tornava di corsa verso casa, senza riflettere che questo atto improvviso non faceva che aggiungersi ai ricordi imbarazzanti dell'ultima mezz'ora. Non le rimaneva più la forza per pensarci. Non riuscì che a buttarsi sul seggiolone basso e scoppiò in lacrime. Oh, Philip, Philip, vorrei che fossimo di nuovo insieme, così tranquilli, ai fondi rossi. Steven la seguì per un momento con lo sguardo, poi scese nella barca e approdò ben presto al molo. Passò la sera al biliardo, fumando un sigaro dopo l'altro e perdendo una quantità di partite. Ma non voleva smettere, era deciso a non pensare, a non accogliere altri precisi ricordi, fuorché quelli che urgevano in lui per la continua presenza di Maggie. La vedeva, era appoggiata al suo braccio. Ma poi gli toccò di rincasare a piedi, sotto la luce fredda delle stelle, e questa necessità portò seco l'altra di maledire la propria follia e di decidere amaramente che non si sarebbe mai più concesso di restar solo con Maggie. Era stata pura stoltezza, egli era innamorato di Lucy, completamente attaccato a lei e impegnato, impegnato come deve esserlo un uomo d'onore. Avrebbe voluto non averla mai vista questa Maggie Tulliver che gli metteva addosso una febbre simile. Poteva fare una dolce, strana, inquietante, adorabile moglie per qualche altro uomo, ma lui per sé non l'avrebbe mai scelta. E lei? Provava gli stessi sentimenti? Sperava di sì, anzi, no, non sarebbe dovuto andare. Per l'avvenire si saprebbe dominare. Rendersi antipatico, magari litigare con lei. Litigare con lei? Oh, com'era possibile con una creatura che aveva simili occhi, sfidanti e supplichevoli, che contrastavano e attraevano, che comandavano e imploravano, pieni di deliziose contraddizioni. Vedere una tale creatura presa d'amore sarebbe stata una bella sorte per un altro uomo. Un'esclamazione mormorata fra i denti pose termine a quell'interno soliloquio, mentre Steven buttava via il mozzicone dell'ultimo sigaro e, cacciate le mani in tasca, camminava con passo più lento attraverso la macchia. E non fu una parola di benedizione. 7. Torna in scena Philip. La mattina seguente fu molto piovosa. Una di quelle mattine durante le quali i vicini di sesso maschile, che non hanno occupazioni imperiose in casa loro, sono più disposti a tributare alle loro belle vicine delle visite interminabili. La pioggia, che era stata abbastanza sopportabile per venire a piedi o a cavallo, diventerà senza eccezione troppo dirotta, mentre poi fin troppo certo che il tempo non tarderà a schiarirsi, sicché solo un aperto litigio può abbreviare la visita. Un'antipatia latente non ci riuscirà di sicuro. E se per caso si tratta di innamorati, che può esserci di così delizioso in Inghilterra come un mattino di pioggia? Il sole in Inghilterra è malcerto, i capelli non sono mai del tutto al sicuro, e se vi sedete sull'erba potete esporvi a un raffreddore, ma sulla pioggia si può contare. La attraversate al galoppo, avvolti in un impermeabile, ed ecco che vi trovate sulla sedia che vi piace di più, un po' più in alto o un po' più in basso di quella su cui siede la vostra dea, il che per una mente filosofica è la stessa cosa, ed è questa la ragione per cui le donne sono adorate a un tempo e guardate dall'alto in basso, con la soddisfacente fiducia che non ci saranno visite di altre signore. Steven verrà più presto quest'oggi, lo so, disse Lucy, come sempre quando piove. Maggie non rispose, era in collera con Steven, cominciava a pensare di poter detestarlo. Non fosse stata la pioggia quel mattino, sarebbe andata da zia Glegg, così l'avrebbe del tutto evitato. Comunque doveva trovare qualche ragione per rimanere con sua madre fuori dalla stanza. Ma Steven non venne tanto presto e un altro visitatore, un vicino più prossimo, lo precedette. Allorché entrò nella stanza, Philip pensava di dover fare a Maggie un semplice inchino. La loro conoscenza era un segreto che gli era vincolato a non tradire. Ma quando ella si avanzò verso di lui e gli tese la mano, indovinò subito che Liu si era stata messa a parte della cosa. Fu per entrambi un momento di emozione, quantunque Philip avesse passato parecchie ore a prepararsi, peraltro come tutti coloro che hanno attraversato la vita senza aspettarsi molta simpatia, egli perdeva di rado il controllo su se stesso ed evitava col più sensibile orgoglio di tradire visibilmente il proprio palpito. Un po' più di pallore, una leggera tensione delle narici quando parlava e la voce intonata su una gamma un po' più alta, cose che ad un estraneo sarebbero parse a esprimere una fredda indifferenza. Erano i soli segni che Philip d'ordinario manifestasse di un intimo dramma che non era senza la sua violenza. Maggie, invece, che fosse stata costruita di corde di violino, avrebbe avuto più potere di nascondere le impressioni ricevute. Sentì gli occhi riempirsi di lacrime, allorché la sua mano e quella di Philip si strinsero in silenzio. Non erano lacrime dolorose, anzi, avevano piuttosto qualcosa di simile a quelle che le donne e i bambini spargono allorquando hanno trovato una protezione a cui affidarsi e guardano indietro al pericolo che li ha minacciati. Perché Philip, che fino a poco tempo prima era continuamente associato Nella mente di Maggie, con la sensazione che Tom avrebbe potuto giustamente rimproverarla, ecco, era divenuto, in questo breve periodo di tempo, una specie di coscienza esterna alla quale ella poteva ricorrere per averne protezione e forza. La tranquilla, tenera affezione per Philip, con le sue profonde radici nell'infanzia, col ricordo delle lunghe e calme conversazioni che avevano confermato con impressioni chiare e successive le prime inclinazioni del suo istinto, il fatto che egli si rivolgeva alla sua pietà e alla sua devozione femminile più e meglio che alla sua vanità o ad altri moventi egoistici del suo carattere, parevano ora costituire una specie di luogo sacro, un santuario dove ella potesse trovare rifugio contro una seducente influenza a cui la sua parte migliore doveva resistere, già che non avrebbe recato se non orribile confusione dentro di lei e disgrazie al di fuori. Questo nuovo senso dei suoi rapporti con Philip attenuava gli ansiosi scrupoli che ella avrebbe altrimenti provati per tema di oltrepassare i limiti della relazione permessa da Tom, sicché gli tese la mano e si sentì le lacrime agli occhi senza la coscienza di intimi rimproveri. La scena fu proprio quale Lucy si aspettava e il suo cuore gentile era lieto di avere riavvicinato Philip e Maggie, quantunque pur con tutta la sua stima per Philip non potesse difendersi dall'impressione che suo cugino Tom aveva qualche scusa di sentirsi urtato dalla sconvenienza fisica tra i due. Un individuo prosaico come il cugino Tom, che non amava la poesia e i racconti di fate, ma appena le fu possibile, si mise a parlare per sollevarli. Molto buono e simpatico da parte vostra, disse nella sua graziosa voce di soprano, simile a un sommesso cinguettio di uccellini in conversazione, di venire appena arrivato. E per questo credo vi perdonerò di essere scappato così a sproposito, senza darne notizie agli amici. Venite a sedervi qui, continuò, portandogli la sedia che gli sarebbe meglio convenuta, e vi vedrete trattato con misericordia. Voi non riuscireste mai a reggere bene un governo, Miss Dean, disse Philip mentre si sedeva, perché nessuno potrebbe credere alla vostra severità. Il popolo si sentirebbe sempre incoraggiato alla cattiva condotta dalla certezza della vostra indulgenza. Lucy si mise a contraddirlo scherzosamente, ma Philip non la sentì perché si era naturalmente voltato verso Maggie ed ella lo guardava con quell'attenzione aperta e affettuosa con cui consideriamo un amico dal quale siamo stati lungamente divisi. Che momento era stato quello del loro distacco? E Philip lo sentiva come fosse stato appena il giorno prima. Così vivamente lo sentiva, con un ricordo così intenso e particolareggiato, con sì appassionata reviviscenza di tutte le parole e di tutti gli sguardi scambiati durante l'ultima loro conversazione, che con la gelosia e la sfiducia, le quali nelle nature timide si alleano quasi inevitabilmente ad un forte sentimento, credette leggere nell'occhiata e nei modi di Maggie l'evidenza di un mutamento. Il solo fatto che gli temeva, e un poco anche se lo aspettava, sarebbe già bastato a fargliene sorgere il pensiero, in mancanza di una prova positiva del contrario. Sto passando delle belle vacanze, non è vero? Disse Maggie. Lucy è come una fata madrina, in men che non si dica, ma trasformata da schiava in principessa. Da mattina a sera non faccio che seguire i miei capricci e lei riesce sempre a capire ciò che io voglio prima ancora che io stessa lo sappia. Oh, sono sicuro che la più contenta ad avervi qui è proprio lei, disse Philip. Per lei dovete essere più cara che tutto un serraglio di animali prediletti e avete una bella cera. Il cambiamento vi giova. Una simile conversazione artificiosa durò per qualche istante finché Lucy, decisa a mettervi un termine, esclamò che aveva dimenticato qualcosa, simulando benissimo di esserne contrariata e in un attimo fu via dalla stanza. Subito Maggie e Philip si avvicinarono e le loro mani di nuovo si strinsero con uno sguardo di contentezza attristata, come quella di amici che si ritrovino nel ricordo di una pena recente. Ho detto a mio fratello che volevo vedervi, Philip. L'ho pregato di sciogliermi dalla promessa ed egli ha consentito. Nella sua impulsività, Maggie voleva che Philip sapesse subito il contegno che dovevano serbare l'uno verso l'altro. Ma si trattenne. I fatti accaduti dal tempo che egli le aveva parlato del suo amore erano così penosi che ella rifuggiva dall'essere la prima ad alludervi. Già le pareva un insulto a Philip anche un semplice accenno a suo fratello. A suo fratello che l'aveva insultato. Ma egli era troppo preso dal pensiero di lei per poter in quel momento essere sensibile a qualsiasi altra cosa. E così potremmo almeno essere amici, Maggie. Non c'è nulla ora che ce lo impedisca. Vostro padre non si opporrà? Disse Maggie, ritraendo la propria mano. Oh, non rinuncerei a voi per nessun'altra ragione che il vostro volere, Maggie, disse Philip arrossendo. Come vi dicevo allora, ci sono dei punti sui quali resisterò sempre a mio padre, e questo è uno. In tal caso non c'è nulla che ci impedisca di essere amici, Philip, di vederci e di parlarci durante il tempo che io starò qui. Presto dovrò ripartire, molto presto, dico. Mi presenterò ad un nuovo impiego. È proprio inevitabile, Maggie? Sì, non devo rimanere qui a lungo, non mi adatterei più alla vita che dovrò poi affrontare. Io non posso dipendere da nessuno, non posso vivere con mio fratello, quantunque egli sia molto buono con me. Vorrebbe provvedere lui alla mia vita, ma questo mi sarebbe insopportabile. Philip rimase in silenzio per qualche momento. E poi disse con voce acuta e sottile che in lui indicava il proposito di dominare l'emozione. Non c'è altra possibilità, Maggie. Questa vita lontana da coloro che vi vogliono bene è proprio la sola che vi concedete di prospettarvi per l'avvenire? Oh sì, Philip, gli disse, guardandolo supplichevolmente, come lo implorasse di credere che era costretta a quel contegno. Almeno allo stato attuale delle cose. Non so che potrà succedere col tempo, ma comincio a pensare che dall'amore non mi verrà mai molta felicità. È sempre stato congiunto con tanta pena per me. Vorrei potermi costruire un mondo al di fuori dell'amore, come fanno gli uomini. Ecco, state tornando sotto altra forma ai vostri vecchi pensieri, Maggie, a quei pensieri che io solevo combattere, disse Philip con una lieve punta di amarezza. Volete trovare una sorta di rinunzia? Che vi offra un rifugio dal dolore. E io vi ripeto ancora che contro il dolore non c'è scampo, fuorché nel pervertire o nel mutilare il proprio carattere. Che sarebbe di me se io tentassi di sfuggire al dolore? Disprezzo e cinismo sarebbero il mio solo oppio, a meno che io potessi cadere in una sorta di orgogliosa follia e fantasticassi di essere il favorito del cielo, dal momento che non sono un favorito degli uomini. L'amarezza si era fatta più impetuosa a mano che Philip parlava. Quel discorso era evidentemente lo sfogo di qualche suo immediato sentimento, oltre che una risposta a Maggie. C'era in quel momento qualche pena che urgeva in lui. Con orgogliosa delicatezza egli rifuggiva, pur dalla più lontana allusione alle parole d'amore, alle promesse che erano corse tra loro. Gli sarebbe parso come rammentare a Maggie un impegno. Il che ai suoi occhi avrebbe avuto un poco la vigliaccheria di una violenza, e nemmeno avrebbe insistito sul fatto che il suo cuore non era mutato, perché anche questo gli sarebbe parso una richiesta. Il suo amore per Maggie, più ancora che il resto della sua esperienza, era improntato dal sentimento esagerato di essere un'eccezione, e che lei, come tutti gli altri, lo considerava un'eccezione. Ma in Maggie c'era una crisi di coscienza. Sì, Philip, gli disse con infantile contrizione che soleva prendere quando egli la rimproverava. Avete ragione, lo so. Io penso sempre troppo ai miei sentimenti e non abbastanza a quelli degli altri, non abbastanza ai vostri. Avrei avuto bisogno che ci foste sempre voi a correggermi, a maestrarmi. Quante delle cose che mi dicevate sono divenute vere? Maggie parlava col gomito sulla tavola. E il capo su una mano e guardava Philip con un affetto sottomesso e un po' pentito, mentre egli le ricambiava quello sguardo con una espressione che alla coscienza di lei diventava poco a poco meno vaga, anzi carica di uno specifico ricordo. Il pensiero di lui era forse tornato a qualcosa di cui ella si rammentava? Qualcosa che concerneva un innamorato di Lucy? Quest'idea la fece sussultare. Le precisò meglio la sua presente situazione e le possibili conseguenze di ciò che era successo la sera prima. Tolse il braccio di sopra la tavola, costretta a mutare di attitudine per quella precisa oppressione fisica al cuore che a volte accompagna una subitanea angoscia morale. Che c'è, Maggie? successo qualcosa, disse Philip con inesprimibile ansietà. La sua immaginazione era anche troppo pronta a prevedere tutto ciò che potesse riuscir fatale ad entrambi. No, niente, disse Maggie facendo appello alla propria latente forza di volontà. Philip non doveva avere in mente quell'odiosa idea, anche lei l'avrebbe bandita dalla propria. Niente, ripeté, fuorché nella mia testa. Dicevate sempre che io avrei sentito gli effetti della mia vita mortificata, come la chiamavate voi, ed ecco che li provo. Sento troppo vivamente la gioia della musica e di una vita di agi, ora che mi è concessa. Riprese il proprio lavoro e vi si applicò risolutamente mentre Philip la osservava, dubitando se proprio non le era passato per la testa altro che quella generica allusione. Era tipico di Maggie di essere agitata da un vago senso di colpa, ma ecco che una scampanellata acuta e ben nota risuonò per la casa. Oh, che modo clamoroso di annunziarsi! Disse Maggie, completamente padrona di se stessa, quantunque non senza qualche interna agitazione. Chissà dov'è Lucy? Lucy non era stata sorda a quel richiamo, e dopo il tempo necessario per alcune domande sollecite ma non affrettate, introdusse Steven.